Di questa disposizione, le pagine di Goncourt che avevo lette mi indussero a pentirmi. Infatti, forse, avrei potuto concluderne che la vita insegna a sminuire il pregio della lettura e ci mostra che quanto lo scrittore ci vanta non valeva granché, ma potevo altrettanto correttamente concluderne che la lettura, al contrario, ci insegna a rialzare il valore della vita, valore che non abbiamo saputo apprezzare e che soltanto grazie al libro percepiamo quanto fosse grande. A rigore, possiamo consolarci d'aver poco goduto della compagnia di un Vinteuil, di un Bergotte. Il borghesismo pudibondo del primo, i difetti insopportabili dell'altro, persino la pretenziosa volgarità ai suoi esordi di un Elstir, giacché il Journal des Goncourt mi aveva fatto scoprire come egli non fosse altri che il signor Tisch, che un tempo in casa Verdurin aveva tenuto a suon discorsi così esasperanti, non provano nulla contro di loro, dal momento che è nelle opere che si manifesta il loro genio. Per costoro, che siano i libri di memorie, oppure noi, ad aver torto nell'attribuire del fascino alla loro compagnia che ci è dispiaciuta, è un problema di scarsa importanza. Infatti, se anche ad aver torto fosse il memorialista, questo non proverebbe niente contro il valore della vita che produce simili geni. Ma quale uomo di genio non ha adottato gli irritanti modi di dire della sua banda prima di raggiungere, come era successo a Elstir e come raramente succede, un buon gusto superiore? Le lettere di Balzac, per esempio, non sono forse piene di espressioni volgari che Swann avrebbe patito mille morti ad usare? Eppure è probabile che Swann, così fine, così al di sopra d'ogni odiosa goffaggine, non sarebbe stato capace di scrivere La Cuisine Bête o Le Curé de Tours. All'estremità opposta dell'esperienza, quando vedevo che gli aneddoti più curiosi, che forniscono materia inesauribile, svago delle serate solitarie per il lettore, al Journal di Goncourt, gli erano stati raccontati da quei commensali che attraverso le sue pagine avremmo tanto voluto conoscere e che a me non avevano lasciato traccia d'un solo ricordo interessante. La cosa non era tuttavia completamente inspiegabile. Malgrado l'ingenuità di Goncourt, che dall'interesse degli aneddoti inferiva la probabile distinzione di chi li raccontava, poteva benissimo darsi che uomini mediocri avessero visto o sentito raccontare nel corso della loro vita cose curiose e li raccontassero a loro volta. Goncourt sapeva ascoltare, così come sapeva vedere. Io no. D'altronde, questi fatti si sarebbero dovuti giudicare uno per uno. Il signor di Germain non aveva certo fatto l'impressione di quell'adorabile esempio di grazie giovanili che la nonna avrebbe tanto voluto conoscere e che mi proponeva come modello inimitabile, basandosi sulle memorie di Madame de Beausergent. Ma bisogna pensare che Bazin, allora, aveva 7 anni, che l'autore delle memorie era sua zia e che persino i mariti, in procinto di divorziare, tessono grandi elogi della moglie. Una delle più belle poesie di Sainte-Beuve è consacrata all'apparizione davanti a una fontana di una fanciulletta incoronata di tutti i doni e di tutte le grazie, la giovane Mademoiselle de Champlatreux, che non doveva avere allora nemmeno 10 anni. Malgrado tutta l'affettuosa venerazione che un poeta geniale come la contessa di Noailles aveva per sua suocera, la duchessa di Noailles, nata Champlatreux, se avesse dovuto farne il ritratto, è possibile che questo sarebbe stato in alquanto vivace contrasto con quello dipinto da Sainte-Beuve 50 anni prima. Più inquietante, forse, era ciò che stava in mezzo. Erano le persone nelle quali ciò che si dice di loro implica qualcosa di più della memoria che ha saputo trattenere un aneddoto curioso, senza che abbiamo, tuttavia, come per i Vinteuil e i Bergotte, la possibilità di giudicarli in base alla loro opera, visto che non ne hanno creata alcuna. Ne hanno soltanto, con immenso stupore di chi, come noi, li trovava tanto mediocri, ispirate. Passi ancora che il salotto, da cui, nei musei, riceviamo la maggiore impressione d'eleganza, dopo i grandi dipinti del Rinascimento, sia quello della borghesuccia ridicola, alla quale, se non l'avessi conosciuta, avrei sognato davanti al quadro di potermi avvicinare nella realtà, sperando di apprenderne i segreti più preziosi dell'arte del pittore, che la tela non mi confidava, e il cui pomposo strascico di velluti e di trine è un pezzo di pittura paragonabile ai più belli di Tiziano. Se, un tempo, avevo capito che a diventare un Bergotte, quando anche i contemporanei lo considerino meno fine di Swann e meno colto di Brotté, non è l'uomo più spiritoso, più istruito, dotato di migliori relazioni, ma quello che sa farsi specchio e può riflettere così la propria vita, magari anche mediocre, a maggior ragione si poteva dire lo stesso dei modelli dell'artista. Al destarsi dell'amore per la bellezza, il modello dell'eleganza in cui l'artista, che può dipingere tutto, potrà trovare soggetti così belli, sarà fornito da persone un po' più ricche di lui, in casa delle quali troverà ciò che solitamente non ha nel suo studio d'uomo di genio misconosciuto che vende le sue tele a 50 franchi l'una. Un salotto con mobili ricoperti di vecchia seta, molte lampade, bei fiori, bella frutta, bei vestiti, persone relativamente modeste o che tali apparirebbero a persone davvero brillanti, le quali non ne conoscono nemmeno l'esistenza, ma proprio per questo sono più disponibili a conoscere l'artista oscuro, ad apprezzarlo, a invitarlo, a comprare le sue tele, che non gli aristocratici, che si fanno ritrarre come i papi e i capi di Stato dai pittori accademici. La poesia di un interno elegante e di belle toilette del nostro tempo non la troveranno forse i nostri posteri nel salotto dell'editore Charpentier dipinto da Renoir, piuttosto che nel ritratto della principessa di Sagan o della contessa di La Rochefoucauld dipinto da Caux o da Chaplin. Gli artisti che ci hanno offerto le più grandi visioni d'eleganza ne hanno raccolto gli elementi in case di persone che erano ben di rado i grandi eleganti della loro epoca, i quali ben di rado si fanno ritrarre dall'ignoto portatore d'una bellezza che essi non sono in grado di distinguere nei suoi quadri, nascosta com'è dall'interposto modello d'una grazia decrepita che fluttua nell'occhio del pubblico come quelle visioni soggettive che il malato crede d'avere realmente davanti. Ma se i mediocri modelli che avevo conosciuti avevano inoltre ispirato, consigliato certe disposizioni dalle quali ero stato incantato, se la presenza di taluno fra loro era in certi quadri più che quella d'un modello, quella d'un amico che si desidera farvi figurare, c'era da chiedersi se tutte le persone che ci rammarichiamo di non aver conosciute, perché Balzac le dipingeva nei suoi libri e glieli dedicava con parole d'ammirazione, le persone che ispirarono a Sainte-Beuve o a Baudelaire i loro versi più belli, a maggior ragione tutte le Récamier, tutte le Pompadour, non mi sarebbero parse persone insignificanti, o per un'imperfezione della mia natura, cosa che mi faceva allora stizzire d'essere malato e di non poter tornare a vedere tutte le persone che avevo sottovalutate, o perché dovevano il loro prestigio unicamente a un'illusoria magia della letteratura, il che mi costringeva a mutar dizionario per leggere e mi consolava di dover da un giorno all'altro, a causa dei progressi della mia cattiva salute, rompere con la società, rinunciare ai viaggi, ai musei, per farmi ricoverare in una casa di cura. Forse, Tuttavia, questo aspetto menzognero, questa luce falsa, esistono nei libri di memorie solo quando essi sono troppo recenti, quando le reputazioni, intellettuali o mondane che siano, svaniscono così rapidamente, perché se poi l'erudizione tenta di reagire contro un tale seppellimento, riesce sì e no degli oblii che si vanno accumulando a distruggerne uno su mille.